L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Ventiquattresima puntata. Il triplice duello di Lampedusa. Lettura poetica di Giancarlo Sbragia. Narratore Gianni Bonagura. Il re Agramante all'oriente avea volta la prora e s'era spinto in alto, quando da terra una tempesta rea mosse da banda impetuoso assalto. Il nocchier ch'al governo vi sedea, io veggo, disse alzando gli occhi ad alto, una procella apparecchiarsi grave che contrastar non le potrà la nave. S'attendete, signori, al mio consiglio, qui da man manca un'isola vicina a cui mi par ch'abbiamo a dar di piglio finché passi il furor della marina. Consentì il re Agramante, e di periglio uscì, pigliando la spiaggia mancina, che per salute dei nocchieri giace fra gli afri e di Vulcan l'alta fornace. D'abitazioni è l'isoletta vota, piena d'umil mortelle e di ginepri, ioconda solitudine e remota a cervi, ad aini, a caprioli, a lepri, e fuor capiscatori è poco nota, ove sovente arrimondati vepri sospendon per seccar l'umide reti. Dormeno intanto i pesci in mar quieti. Al largo di Biserta in fiamme, re Agramante, sconfitto anche sul mare dalla flotta di Dudone, approda col fedele sobrino in un'isola di pescatori. Vi trova Gradasso, riparato là durante una tempesta, che si offre di sfidare Orlando a singolar tenzone come ultimo tentativo di rivincita. Ma Agramante non vuol lasciare Gradasso solo a battersi, e il vecchio e pur robusto sobrino non intende essere da meno. Inviteranno Orlando e due dei suoi compagni a un solitario torneo, 3 contro 3, nella vicina isola di Lampedusa. Orlando è ben lieto di accettare la sfida, perché Gradasso è in possesso della sua spada d'Urlindana e Agramante del suo cavallo Brigliadoro. Non vede l'ora, adesso che ha riavuto il senno, di recuperare anche tutti gli altri pezzi di se stesso andati smarriti nei suoi folli vagabondaggi. I passi dei nostri eroi che finora hanno spaziato sulla mappa dei continenti, adesso, approssimandosi alla fine della vicenda, hanno preso a ruotare come punte di compasso sulle carte nautiche e fanno perno sulle isole piccole o grandi del Mediterraneo. Il mondo è un arcipelago. Sull'isola deserta di Lampedusa sbarcano Orlando, il suo migliore amico Brandimarte e il cognato Oliviero, per battersi contro Gradasso, Agramante, sobrino. È un duello d'una complessità estrema, anche perché i campioni combattono con elmi, spade, cavalli che appartengono sempre a qualcun altro e delle cui virtù sono loro i primi a stupirsi. Quest'isoletta di Lampedusa è diventata quasi il ricettacolo delle armi più miracolose e dei più famosi cavalli, tanto che a un certo punto ci arriva in barca anche Rinaldo per ritrovare il suo baiardo. Arriva tardi, la tenzone è finita. Sul terreno giacciono i cadaveri d'Agramante e di Gradasso, ma la vittoria dei paladini è stata pagata con uno scotto crudele, la morte di Brandimarte. Destino ha voluto che il più caro amico d'Orlando cadesse col capo diviso tra le ciglia proprio dalla spada che era stata d'Orlando, la famosa Durlindana, con la quale Gradasso aveva fino allora dominato il duello, lasciando tramortito perfino il suo legittimo e invulnerabile possessore. Trovato a Brandimarte il re Agramante e cominciato a tempestargli intorno, Or con frontigli al fianco, or li è davante, con quel frontin che gira come un torno. Buon cavallo è il figliol di Monodante, non l'ha peggiore il re di Mezzogiorno, a Brigliador, che gli donò Ruggero, poi che lo tolse a Mandricardo Altiero. Vantaggio ha bene assai dell'armatura, a tutta prova la buona e perfetta. Brandimarte la sua tolse a Ventura, qual poté avere a tal bisogno in fretta, ma sua animosità si l'assicura chi miglior tosto di cangiarla aspetta, come che re Africano d'aspra percossa la spalla destra gli avea fatta rossa e serbi da Gradasso anco nel fianco piaga da non pigliar però da gioco. Tanto l'attese al varco il guerrier franco che di cacciar la spada trovò loco, spezzò lo scudo e ferì il braccio manco e poi nella man destra il toccò un poco. Ma questo un scherzo, si può dire un spasso, verso quel che fa Orlando e il re Gradasso. Gradasso a mezzo Orlando disarmato. L'elmo gli è in cima e dai due lati rotto, e fattogli cader lo scudo al prato, osbergo e maglia apertagli di sotto, non l'ha ferito già, che era affatato. Ma il paladino, a lui peggio condotto, in faccia, nella gola, in mezzo al petto l'ha ferito, oltre a quel che già v'ho detto. Gradasso, disperato, che si vede del proprio sangue, tutto molle e brutto, e corlando del suo dal capo al piede, sta, dopo tanti colpi, ancora asciutto, leva il brando a due mani, e ben si crede partirgli il capo, il petto, il ventre e il tutto, e appunto, come vuol, sopra la fronte, percuote a mezza spada il fiero conte. E s'era altro corlando, l'avria fatto, l'avria sparato fin sopra la sella, ma come colto l'avesse di piatto, la spada ritornò lucida e bella. Della percossa, Orlando, stupefatto, vide, mirando in terra, alcuna stella. Lasciò la briglia, il brando avria lasciato, ma di catena al braccio era legato. Del suon del colpo fu tanto smarrito il corridor corlando avea sul dorso, che discorrendo il polveroso lito mostrando gia quant'era buona al corso. Della percossa il conte tramortito non ha valor di ritenergli il morso. Segue Gradasso, e l'avria tosto giunto poco più che Baiardo avesse punto. Ma nel voltar degli occhi il re Agramante vide condotto all'ultimo periglio, che nell'elmo il figliuol di Monodante col braccio manco gli ha dato di piglio. E gliel'ha dislacciato già davante e tenta col pugnal nuovo consiglio. Negli può far quel re difesa molta, perché di man gli ha ancor la spada tolta. Volta Gradasso e più non segue Orlando, ma dove vede il re Agramante accorre. L'incauto Brandimarte, non pensando corlando costui lasci da sé torre, non gli ha negli occhi nel pensiero, instando il coltel nella gola al pagan porre. Giunge Gradasso e a tutto suo potere con la spada due man l'elmo gli fere. Padre del ciel, dà fra gli eletti tuoi spiriti luogo al martir tuo fedele, che giunto al fin dei tempestosi suoi viaggi in porto ormai lega le vele. Ah, Durindana, dunque esser tu puoi al tuo signore Orlando sì crudele che la più grata compagnia e più fida che gli abbia al mondo innanzi tu gli uccida. Di ferro un cerchio grosso era due dita intorno all'elmo e fu tagliato e rotto dal gravissimo colpo e fu partita la cuffia dell'acciar che era di sotto. Brandimarte, con faccia sbigottita, giù dal destrier si riversò di botto e fuor del capo fe con larga vena correr di sangue un fiume in su l'arena. Il conte si risente e gli occhi gira ed ha il suo Brandimarte in terra scorto e sopra in atto il Serican gli mira che ben conoscer può che gliel'ha morto. Non so se in lui poté più il duolo o l'ira, ma da piangere il tempo avea sì corto che restò il duolo e l'ira uscì più in fretta. La vendetta d'Orlando cade come un fulmine su Agramante e Gradasso, E se non viene ucciso anche Sobrino, è perché gli resti il tempo, più morto che vivo com'è, di convertirsi al cristianesimo. Ma per salvare Brandimarte è troppo tardi. Il nome della sposa Fiordiligi non s'è ancora del tutto staccato dalle sue labbra ed egli spira. Qual nomade pastor che veduta abbia fuggir strisciando l'orrido serpente che il figliol che giocava nella sabbia ucciso gli ha col venenoso dente, stringe il baston con colera e con rabbia, tal la spada d'ogni altra più tagliente stringe con ira il cavalier d'Anglante. Il primo che trovò fu re Agramante, che sanguinoso e della spada privo con mezzo scudo e con l'elmo disciolto e ferito in più parti ch'io non scrivo, s'era di man di Brandimarte tolto, come di pie alla stor sparvier malvivo, a cui lasciò alla coda invido o stolto. Orlando giunse e messe il colpo giusto, ove il capo si termina col busto. Sciolto era l'elmo e disarmato il collo, sicché lo tagliò netto come un giunco. Cadde e diè nel sabbion l'ultimo crollo del regnator di Libia il grave trunco. Corse lo spirto all'acque, onde tirollo Caron nel legno suo, col graffio adunco. Orlando sopra lui non si ritarda, ma trova il Serican con Balisarda. Come vide Gradasso d'Agramante cadere il busto dal capo diviso, quel c'accaduto mai non gli era in ante, tremò nel core e si smarrì nel viso. E all'arrivar del cavalier d'Anglante, presago del suo mal, parve conquiso. Per schermo suo partito alcun non prese, quando il colpo mortal sopra gli scese. Orlando lo ferì nel destro fianco, sotto l'ultima costa, e il ferro immerso nel ventre un palmo uscì dal lato manco, di sangue sino all'elsa tutto asperso. Mostrò ben che di man fu del più franco e del miglior guerrier dell'universo il colpo che un signor condusse a morte, di cui non era in pagania il più forte. Di tal vittoria, non troppo gioioso, presto di sella il paladin si getta, e col viso turbato e lacrimoso, a Brandimarte suo corre a gran fretta. Gli vede intorno il campo sanguinoso, l'elmo che par ch'aperto abbia un'accetta, se fosse stato fra il più che di scorza, difeso non l'avria con minor forza. Orlando l'elmo gli levò dal viso e ritrovò che il capo sino al naso fra l'uno e l'altro ciglio era diviso, ma pur gli è tanto spirto anco rimaso che dei suoi falli al re del paradiso può domandar perdono, anzi l'occaso, e confortare il conte che le gote sparge di pianto a pazienza puote e dirgli: Orlando, fa che ti raccordi di me nell'orazion tue grate a Dio, né men ti raccomando la mia Fiordi, ma dir non poté Ligi, e qui finio. E voci e suoni d'angeli concordi tosto in aria s'udir che l'alma uscio, la qual disciolta dal corporeo velo, fra dolce melodia salì nel cielo. Chi porterà la notizia alla sposa? Fiordiligi attendeva a Biserta e già in sogno aveva avuto un nero presagio. Non sarà necessario dirle nulla. Sa che i cristiani hanno vinto e le basta spiare i volti da Stolfo e Sansonetto che s'avvicinano. Sono mesti come per una sconfitta. Lei subito comprende. Questo poema ci ha insegnato a contemplare lutti e strazi, dosandoli in modo da farli scorrere quasi con leggerezza in mezzo ai variegati accadimenti della vita. È venuto ora dunque anche qui il momento di cedere al dolore? Certo, anche il dolore ha la sua parte nello spettacolo del mondo arcipelago. Le esequie di Brandimarte si svolgono per nave, dal golfo di Biserta a quello d'Agrigento, e poi su per le pendici dell'Etna, illuminate dalle fiaccole. Con fresco vento che in favor veniva sciolser la fune al declinar del giorno, mostrando lor la taciturna diva la dritta via col luminoso corno, e sorser l'altro dì sopra la riva ch'Amena giace ad Agrigento intorno. Quivi Orlando ordinò per l'altra sera ciò che a funeral pompa bisogno era. Poi che l'ordine suo vide eseguito, essendo mai del sole il lume spento, fra molta nobiltà che era allo invito dei luoghi intorno corsa in Agrigento, d'accesi torchi tutto ardendo il lido e di grida sonando e di lamento, tornò Orlando, ove il corpo fu lasciato, che vivo e morto avea con fede amato. Quivi Bardin, di soma d'anni grave, stava piangendo alla bara funebre, che pel gran pianto che avea fatto in nave dovria gli occhi aver pianti e le palpebre. Chiamando il ciel crudel, le stelle prave, ruggia come un leon ch'abbia la febbre. Le mani erano intanto empie e ribelle ai crin canuti e alla rugosa pelle. Levossi al ritornar del paladino maggiore il grido e raddoppiossi il pianto. Orlando, fatto al corpo più vicino senza parlar, stette a mirarlo alquanto, pallido, come colto al mattutino è da sera il ligustro o il molle acanto. E dopo un gran sospir, tenendo fisse sempre le luci in lui, così gli disse: «O forte, o caro, o mio fedel compagno, che qui sei morto e so che vivi in cielo, ed una vita vai fatto guadagno, che non ti può mai tor caldo né gelo. Perdonami, se ben vedi ch'io piagno, perché d'esser rimaso mi querelo, e ca tanta letizia io non son teco, non già perché quaggiù tu non sia meco. Solo senza te son, né cosa in terra senza te posso aver più che mi piaccia. Se teco era in tempesta e teco in guerra, perché non anco in ozio ed in bonaccia? Ben grande è il mio fallir, poiché mi serra di questo fango uscir per la tua traccia. Se negli affanni teco fui, percora, non sono a parte del guadagno ancora. Tu guadagnato, e perdita ho fatto io. Sol tu all'acquisto. Io non son solo al danno. Partecipe fatto è del dolor mio l'Italia, il regno franco e l'alemanno. O quanto, quanto il mio signore e zio, o quanto i paladin da doler sanno, quanto l'imperio e la cristiana chiesa che perduto han la sua maggior difesa. O quanto si torrà per la tua morte di terrore ai nemici e di spavento. O quanto pagania sarà più forte, quanto animo n'avrà, quanto ardimento. O come starne dee la tua consorte, sin qui ne veggo il pianto e il grido sento. So che m'accusa e forse odio mi porta, che per me teco ogni sua speme è morta. Ma fior di ligi almen resti un conforto a noi che siam di Brandimarte privi. Che invidiar lui con tanta gloria morto, denno tutti i guerrier ch'oggi son vivi. Quei Deci e quel nel Roman Foro absorto, quel sì lodato Codro dagli Argivi, non con più altrui profitto e più suo onore a morte si donar del tuo signore. Queste parole ed altre dicea Orlando. Intanto i bigi, i bianchi, i neri frati e tutti gli altri chierci seguitando andavan con lungo ordine accoppiati per l'alma del defunto Dio pregando che gli donasse requie tra i beati. Lumi innanzi e per mezzo ed ogni intorno, mutata ver parean la notte in giorno. Levan la bara ed a portarla foro messi a vicenda conti e cavalieri. Purpurea seta la copria, che d'oro e di gran perle avea compassi altieri, di non men bello e signoril lavoro avean gemmati e splendidi origlieri. E giacea quivi il cavalier, con vesta di color pare e d'un lavor con testa. 300 agli altri eran passati innanti, dei più poveri tolti della terra, parimente vestiti tutti quanti di panni negri e lunghi sino a terra. 100 paggi seguian sopra altrettanti grossi cavalli e tutti buoni a guerra, e i cavalli coi paggi ivano il suolo radendo col loro abito di duolo. Molte bandiere innanzi e molte dietro, che di diverse insegne eran dipinte, spiegate accompagnavano il feretro, le quai già tolte a 1000 schiere vinte e guadagnate a Cesare da Pietro avean le forze ch'or giaceano estinte. Scudi v'erano molti che di degni guerrieri a cui fur tolti aveano i segni. Venian 100 e 100 altri a diversi usi delle sequie ordinati, ed avean questi, come anco il resto, accesi torchi, e chiusi più che vestiti, eran di nere vesti. Poi seguia Orlando, e ad or suffusi di lacrime avea gli occhi e rossi e mesti, né più lieto di lui Rinaldo venne. Il pie Olivier che rotto avea ritenne. Lungo sarà, s'io vivo dire in versi, le cerimonie e raccontarvi tutti i dispensati manti oscuri e persi, gli accesi torchi che vi furon strutti. Quindi alla chiesa cattedral conversi, dovunque andar, non lasciar occhi asciutti. Si bel, si buon, si giovane a pietade mosse ogni sesso, ogni ordine, ogni etade. Fu posto in chiesa, e poiché dalle donne di lacrime e di pianti inutil opera, e che dai sacerdoti ebbe le isonne e gli altri santi detti avuto sopra, in un'arca il serbar su 2 colonne, e quella vuole Orlando che si cuopra di ricco drappo d'or, sinché reposto in un sepulcro sia di maggior costo. Orlando di Sicilia non si parte, che manda a trovar porfidi e alabastri, fece fare il disegno e di quell'arte inarrar con gran premio i miglior mastri. Fe le lastre venendo in questa parte, poi drizzar fior di ligi e i gran pilastri, che quivi, essendo Orlando già partito, si fe portar dall'africano lito, e vedendo le lacrime indefesse, ed ostinati a uscir sempre i sospiri, né per far sempre dire uffici e messe, mai satisfar potendo ai suoi disiri, di non partirsi quindi in cor si messe, finché del corpo l'anima non spiri. E nel sepolcro fe fare una cella e vi si chiuse, e fe sua vita in quella. Abbiamo trasmesso la 24ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Giorgio Albertazzi legge Il Bell'Antonio, romanzo di Vitaliano Brancati, con Stefano Onofri. Rita Savagnone. Elio Zamuto. Lettura integrale a cura di Emma Caggiano. Edizioni Bompiani. Musiche originali di Pino Massara. Regia di Dalberto Fei. 24esima puntata. Porzia, dopo aver inghiottito i carboni accesi, morì. Che cosa succederà a me che inghiotto le fiamme della mia passione? La mia tortura nascosta è quella di dover tacere. Tirso de Molina, Ferrarin. Ma sante diavole, le donne, dico io, non è facile prenderle per minchione. E poi dove? Su quest'argomento? Sulla cosa che più gli preme al mondo? Ma nemmeno Belzebù in persona? Ma nemmeno chi si sente il re dei furbi gliela fa? Io gliel'ho fatta, disse Antonio con un sorriso di orgoglio ironico. Ma ragioniamo, ragioniamo. Una volta una donna le puoi inventare che hai fatto un giuramento, che hai il dolore di pancia, che devi prendere una comunione. Ma la seconda volta? Che le dici? Avanti, che le dici? Zio, ho trovato sempre una scusa. Sempre? Sempre. Ma dico, nessuna mai, proprio nessuna, ha sentito odore di bruciato in questa faccenda? Antonio fece di no alzando la testa. No? No. E io, secondo te, devo essere così bestia da crederci? Gridò il gentiluomo. Zio Gildo, vuoi proprio che per una cosa come questa io giuri sulla vita di mia madre e di mio padre, che a quest'ora non sapranno dove sbattere la testa, mezzi ciechi come sono, fra la gente che li prende a spintoni? Ma cosa vuoi che ti dica? Che se mentisco non possano più rientrare vivi? No! Fece lo zio spaventato. Che io possa perdere la vista degli occhi? No! Che mi sparino al buio in una strada stretta. No, no, no, ti credo. Ci fu una pausa. E dunque, riprese Ermenegildo, dopo quella volta con la tedesca, nix, più niente, nemmeno un rimescolio, uno snodamento, una qualche cosa, una mezza cosa, che so io. Nel 1933, in agosto. Ah, ecco, hai visto? Esclamò con un sospiro di sollievo Ermenegildo. In agosto, dunque? Mi trovavo a Collalbo, vicino a quel paese che si chiama Sopra Bolzano, l'ho inteso nominare. Collalbo? Come no? Ma certo, un paese dove si va in estate. È un paese, per modo di dire, un gruppetto di pensioni di legno, qualche albergo, un giardino pubblico con un campo da tennis. Sicuro, sicuro, Collalbo. E poi boschi, da tutte le parti. Boschi, naturalmente. Incalzava lo zio, quasi a secondare la buona disposizione di Antonio a raccontargli qualcosa di meno triste. Sorge su una montagna alta 1200 metri. A nord si vedono montagne infinitamente più alte. Le Dolomiti? Le Dolomiti, sì. E dunque, a Collalbo? C'erano con me Luigi D'Agata, Turi Grassi, i fratelli Bertoni, che si andavano rotolando sull'erba come tanti asinacci per il desiderio di una donna. La cercavano da tutte le parti e, non riuscendo a trovarla, non sapevano come fare. La notte, arrabbiati e senza più ritegno, si cacciavano nel bosco vicino e si mettevano a gridare a voce di testa in modo da farlo sentire in tutta la contrada. Cosa faccio? Me la taglio, Se continua così, bella madre santissima, me la taglio e la butto ai cani! Per ore e ore, con la voce lamentosa e lugubre, come lupi mannari, andavano gridando. Che faccio? Me la taglio! Lo zio ebbe un sorrisetto che lo riposò dell'oppressione che gli aveva schiacciato il cuore fino a quel momento. Una sera, continuò Antonio, si presentò all'albergo principale un ipnotizzatore. Uno di quelli, sai, che addormentano le persone. Un ipnotizzatore, sì. Era un pover'uomo mangiato dalla fame che portava addosso, il quale si esibiva in frac insieme alla moglie che lavorava in décolleté e che egli chiamava la signora. La moglie, o perché aveva fatto una vita meno stentata di lui, o perché mangiava di nascosto a lui, o perché il signore l'aiutava, era grassa come il cane del macellaio, con panetti di carne pressata sotto la cintura, un sedere che smagliava tutte le gonne, metà delle mammelle fuori del corpetto, due occhi neri come ulive che parevano colare tra le ciglia semi abbassate. L'ipnotizzatore, dopo aver tirato dal cappello a cilindro colombe, bandiere, coriandoli e fazzoletti di seta, addormentava la moglie facendola diventare bianca come un lenzuolo. E così addormentata, con dei gesti imperiosi che essa non vedeva ma si sentiva arrivare sulla pelle come colpi di frusta, la faceva uscire dritta dritta dalla sala e la mandava nel corridoio attiguo fin dentro uno stanzino ove essa rimaneva in piedi, immobile, sempre con gli occhi chiusi. Dopo 10 minuti, con voce tonante, il marito chiedeva quali numeri avessero scritto 3 signori del pubblico in certi rotolini di carta che egli finiva di svolgere in quel momento. E la donna, sempre addormentata, diceva i numeri precisi, precisi, come se avesse avuto i fogli sotto il naso. Fenomeno curioso, disse lo zio. La seconda sera, Turi Grassi e Luigi D'Agata, sai cosa fecero? Si nascosero nello stanzino e quando la poveretta arrivò con le mani in avanti e gli occhi chiusi, uno di loro, non ricordo bene chi, senza sapere né leggere né scrivere, la prese bella e pulita com'era e se la assaporò con tutto comodo. Che mi racconti? Rimango da stucco. E la donna non si svegliò. Cosa vuoi che ti dica? Non si svegliò. O finse di continuare a dormire per non dare scandalo e per non perdere il pane. O perché le piaceva? Beh, va bene. E tu? Io rimasi molto turbato da questo racconto. Mi parve che una goccia di fuoco mi fosse cascata sulla carne. Dio, che commozione. La notte mi recai nel bosco solo solo. C'era la luna sulle Dolomiti, gli alberi odoravano. E in fondo al bosco si andava perdendo il suono di una banda musicale che, uscita da coll'albo, si recava in un borgo vicino. Qualcosa veramente si rimescolava nel mio sangue. E questo era confermato dal mio occhio e dal mio udito, che parevano tornare alla felicità di una volta, quando una nota qualunque, un raggio di luce, mi portavano assai vicino all'estasi. Racconta, incalzò lo zio. Non ti fermare. E invece qui mi devo fermare. Perché tutto si fermò qui e non andò oltre. Più di questo non mi accadde. La speranza non si avverò. Il mio sangue tornò a raffreddarsi e di nuovo sentì che fra me e quella parte del mio corpo stava ficcata una lama di coltello. Sangue di Giuda, imprecò lo zio. Sangue di Giuda davvero. E dopo? Scusami, caro, se ripeto questa domanda. Ma te voglio troppo bene e darei pochi mesi di vita che mi restano per sapere che dopo le cose andarono bene. Zio caro, disse Antonio tornando a stringergli la mano, dopo le cose andarono male come prima. Tu non mi puoi capire appieno. No, che io te capisco. No! Tu non puoi capire che cos'è quella sofferenza. C'è un morto nel mezzo della tua vita, un cadavere collocato in modo che qualunque mossa tu fai, sei costretto a sfiorarlo e a sentirne la pelle fredda e rancida. Capisco cosa vuoi dire. Sì, capisco benissimo. Fai male a pensare che io non capisca queste cose. Ma perdonami, esclamò d'un tratto, col tono di chi osa liberarsi d'un impaccio che l'ha fatto soffrire. Ma perdonami, caro. Se sapevi che le cose andavano così. E qui, uniti il pollice e l'indice della mano destra, se li piantò sulla fronte. Se sapevi, ripeto, che da un certo tempo almeno quell'animale che Dio ci diede per nostro tormento cascava in ginocchio quando avrebbe dovuto stare dritto e, insomma, andava stramazzando più del giusto. Perché, dico io? E qui, uniti il pollice e l'indice della sinistra, se li piantò sull'altro lato della fronte accanto a quelli della destra. Perché, santo cristiano? Perché, figlio di Dio benedetto, sei andato a cacciarti fra queste 100 messe? Voglio dire, ad affrontare un matrimonio. E che matrimonio? Con una ragazza interessata, figlia di gente interessata, fredda più del marmo, spinosa come un riccio, permalosa forse. di quelle che non gli puoi dire quanto sono belli i tuoi occhi. Con un crocifisso sulla carne del petto che al momento buono te si mette deciaverso come un pugnale. Quei consigli del confessore che le vietano di fare questo e quello, sicché quel bravo uomo te lo sente nel letto insieme a te a regolare le tue faccende. E misuri anche le parole che dici, perché l'indomani le sapranno in chiesa. Lesta a voltarti la schiena al minimo screzio e a infagottarsi nella sua parte di coperta come in un sacco. Di giorno, sempre con la puzza sotto le narici. La chiave dei cassetti alla cintola. Ti contai i bocconi ogni volta che inghiotte. Non tollerai i profumi perché dici che puzzano. Non fa lo shampoo ai capelli perché dice che le fa cascare. Il bagno una volta alla settimana perché ti più indebolisce. Se leggi il giornale a tavola, si offende. Se parli con lei, ti risponde a monosillabe. Se non parli tu, lei non spiccica una parola. Quando la chatti con calore, ti borbotta che l'hai scambiata per una di quelle. Se la chatti con freddezza, ti rimprovera che la trascuri. Pronta lì come una stupida a invecchiare, a incanutire, sbracarsi davanti di dietro, a ridursi coi piedi gonfi e a camminare come se le fosse caduto un mattone sull'alluce. E a te, se resisti meglio di lei, ti augura tutti i mali di questo mondo, non mortale naturalmente, ma fastidiosi, perché l'idea di essere ancora giovane ti passa una volta per sempre. No, no, no, no! Esclamò Antonio. Come no? Non dico giusto. Lontano sei dalla verità, caro zio, molto lontano. E vorrei essere sicuro del tempo che farà domani come di quello che ho detto. Ah, lontano sei, zio, lontano. Sai come lo conosco questo genere di donne, come la palma della mia mano. Tu fai bene a difendere colei che è stata, e in un certo senso è ancora tua moglie. Ti riveli in questo un gentiluomo. Ma a me lasciami parlare come voglio. Lasciami sfogare la bile, perché sennò mi mangio il fegato. Lontano sei, zio. Va bene, allora parla tu. Spiegami chi è questa Barbara Pugliese. Spiegami per quale diavolo l'hai sposata. Spiegami che cosa è successo fra te e lei. Oh, santo giudizio, ci sarà pure una verità. Se io non la conosco, dimmela tu. Sono pronto a correggermi. Nel 34 tornai da Roma stanco morto delle mie stesse menzogne. Ero riuscito a far credere di essere l'amante della contessa K, della figlia di un ambasciatore, della moglie di un ispettore del partito. Tu pure, figlio di Dio, come faceva ad avere rapporto con quei fascisti? Io non lo so. Ma zio, quella cosa non ha partito. Il brutto non era che le signore che io conoscevo fossero mogli di fascisti. Mi importava poco questo a me. Il brutto era che con quelle signore io dovevo limitarmi a fare la commedia, perché di serio non riuscivo a fare nulla. Se con le mogli degli antifascisti fossi stato più capace, oh zio, l'ovra, la milizia e la GIL, tutte quante insieme, non mi avrebbero impedito di frequentarle. Ma le mogli degli antifascisti sono molto serie, caro mio, e non ti avrebbero dato tanto spago, cosa credi? Beh, se ti dicessi... Lasciamo stare la politica, zio. Sempre di politica si deve stare a parlare con te, eh? La politica qui non c'entra. Va bene, va bene. Seguita a raccontare. Nel 34 tornaste da Roma. Sì. Tornai come una povera bestia che fa il macello. Quanti pensieri mi ballavano in mente mentre cercavo di dormire nel vagone letto. Roma, in fondo, era la città che mi aveva dato le più grandi e uniche gioie della mia vita. Mi allontanavo dal Papa alla cui vicinanza avevo attribuito nel 30 il miracolo di quei giorni fortunati, inenarrabili, quando la felicità mi investiva e saltava da ogni parte. Scomparse erano nella memoria le lunghe attese a Napoli, coi suoni dei mandolini che mi trapanavano la carne, le bugie anche di allora, i congedi, le fughe. Rimaneva il sapore di vino bruciato che aveva il mondo a quei tempi, il mondo che io mi bevevo da tutti i sensi. Il ricordo del momento celeste, tanto più celeste, mano a mano che passavano gli anni privi di lui, quel momento di fuoco, di miele, di paradiso. Adagio, vaccia adagio, disse lo zio. Un momento come un altro. Forse io non esagero l'importanza, ammise dolcemente Antonio, da quando non sono più in grado di ripeterlo. Ma non dire che sia un momento come gli altri. Qualche volta un momento peggio degli altri, fece lo zio un po' ostinato. Ma non le deghiamo. Seguita il tuo racconto.